quanto è bella la cordialità fra automobilisti, tra due che fino a quel momento non si erano mai visti, tra due che forse di cose in comune non hanno quasi niente, magari un gusto, un piatto, un disco o solo la patente. Ma quanto è bella la cordialità fra certi conducenti, uno che avvisa qualcun altro che viaggia a affari spenti, che con un gesto della mano si fanno segno di passare. Non ti ho visto, chiedo scusa, e non si mandano a cagare. Passa tu, no passa tu, che non ho per niente fretta. Sono qui e mi godo il viaggio, il presente, la diretta. Passa tu, no passa tu, di pensieri ne ho abbastanza e migliaia di altre cose a cui dare precedenza. Ma quanto è bella la cordialità fra automobilisti, fra due che fino a quel momento non si erano mai visti, tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare. E quanto è bella la cordialità concessa a quei pedoni, non sanno mai se attraversare e aspettano lì buoni. Ma sulle strisce pedonali, sia brutti belli tutti uguali, dai che ti do un passaggio, sali. Passa tu, no passa tu, che non ho per niente fretta. Sono qui e mi godo il viaggio, il presente, la diretta. Passa tu, no passa tu, di pensieri ne ho abbastanza e migliaia di altre cose a cui dare precedenza. Passa tu, no passa tu, che non ho per niente fretta. Sono qui e mi godo il viaggio, il presente e la diretta. Passa tu, no passa tu, ora dei pensieri ne ho abbastanza e migliaia di altre cose a cui dare precedenza. Uno va dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.